Signori, buonasera, benvenuti all'ascolto di Radio Ernica, puntualissimi come ogni pomeriggio. Noi siamo qui anche oggi per raccontarvela, cioè per dirvi praticamente quello che accade intorno a noi. E naturalmente noi siamo felicissimi di poter trascorrere con voi due ore praticamente di diretta, due ore di diretta che poi verranno replicate anche nella giornata di domani. Abbiamo anche Aurelio, un saluto anche a lui. Sì, buon pomeriggio a voi tutti, amici ascoltatori, un pomeriggio sicuramente molto importante, pieno di tante notizie in diretta da Radio Ernica. Il buon ascolto a voi tutti. Il lunedì si parla tanto di sport, ma questa volta si parla anche tanto di politica. È stata appena varata la giunta regionale del Lazio, la nuova giunta, ne parleremo durante questo appuntamento odierno sicuramente in maniera molto approfondita. Parleremo anche di quello che è stata una importante manifestazione da parte del cosiddetto popolo spontaneo nella nostra città sabato pomeriggio, una intensa manifestazione contro la possibilità ad Anagni di avere un inceneritore di Carflaff, di materie plastiche derivanti da autovetture per l'appunto che hanno finito il loro ciclo diciamo di vita meccanica. Tanta gente sulla piazza, tanti trattori, tante persone del mondo cosiddetto civile che hanno protestato contro questa eventualità. Insomma, di notizie ne abbiamo tantissime. L'ultima ora che parla delle dimissioni di Bocchino, uno dei più importanti personaggi del mondo politico della maggioranza. Chiaramente le dimissioni sono legate al fatto della querelle in corso tra Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini all'interno del Popolo delle Libertà. Insomma, di carne al fuoco ce n'è veramente tanto. Sì, ho ancora due cose da dire prima di fare la prima pausa musicale, dopo torneremo con la stampa che oggi abbiamo praticamente in maniera massiccia, cioè Tempo, Ciociaria, Provincia, Messaggero, abbiamo tutti i giornali di oggi e li commenteremo insieme. Due notizie, però credo che sia opportuno darle. Allora, la prima, di rimando a quello che diceva Aurelio, cioè potete vedere la manifestazione di sabato sul nostro sito internet, quindi vi consiglio di andare lì, cliccare su www.radioernica.com e vi troverete praticamente nella possibilità di vedere le immagini, le foto, il pezzo di commento del nostro sito e anche il video della manifestazione. Quindi questo, lo ripeto, www.radioernica.com. Poi se volete delle informazioni sempre su questo e su altro potete chiamare allo 0775 726 546. E poi una notizia che riguarda invece la scomparsa di una persona molto nota nella nostra città, anche se questa persona mancava da Anagni da molto tempo: è morto Riccardo Nobrisi e noi facciamo le condoglianze alla famiglia. Riccardo era conosciutissimo ad Anagni, aveva avuto in età giovanile, diciamo così, un negozio di hi-fi, quindi noi ragazzi dell'epoca siamo molto affezionati a questa figura mitica anche nel mondo delle radio. Tra l'altro aveva favorito la nascita della prima radio locale di Anagni, Radio Anagni 1 si chiamava, e lui era stato uno dei protagonisti di questa nascita. Quindi a Riccardo Nobrisi un pensiero, un saluto affettuoso da parte di tutti noi e, lo ripeto, le condoglianze della nostra emittente. Thank you. piena di mimose. Qualcuno si ferma al tuo passare. Niente è come sembra. Niente è come appare. Perché niente è reale. I was in my car watching for the band. I was looking for you. Allora, eccoci qui, siamo tornati in diretta e naturalmente, come dicevamo, la questione che più viene evidenziata dalla stampa locale è questa vicenda della composizione della giunta regionale del Lazio. Allora io vi leggo qualche titolo: la Ciociaria resta fuori dalla giunta, regione, la provincia si consola con la presidenza del consiglio di Mario Abruzzese. Vediamo su Ciociaria oggi, in prima pagina non viene messo nulla, anzi si dice a pagina 2 pressing sulla regione, Iannarilli chiede impegni concreti e immediati per il rilancio del territorio, però non vedo notizie circa praticamente la nomina degli assessori, quindi diciamo così Ciociaria oggi glissa sulla questione. Mentre praticamente la provincia va giù pesante, ribella di Ciociaria, Abruzzese designato presidente dell'aula, Fiorito capogruppo, ma non può bastare, serve una reazione. Sì. Allora, da dove iniziamo? Io vorrei dare lettura di questo articolo che mi sembra molto interessante del Messaggero, che affronta con ampio risalto la questione della nuova giunta, dando anche, diciamo, delle notizie e delle interpretazioni molto interessanti. Leggo il titolo generale che riporta appunto la regione: Ciociaria senza assessori, Abruzzese presidente del consiglio, ma aggiungiamo deve essere ancora eletto perché dovrebbe avvenire domani questa elezione. Malumori nel centrodestra, ancora una volta nelle nomine Roma l'ha fatta da padrone, l'ex sindaco di Anagni, parliamo di Fiorito, malincuore, accetto le indicazioni del mio partito, sarò capogruppo del PDL alla Pisana. Ancora notizie dall'UDC, Forte, che ricordiamo è il più votato anche se non eletto nel partito di Casini, dice nessun rappresentante del territorio è inaccettabile, ma aggiungiamo non c'è neanche il rappresentante dell'UDC in giunta, che praticamente si tira fuori almeno al momento, vedremo poi gli sviluppi nei prossimi mesi, ma comunque i rappresentanti dell'UDC non sono in giunta e questo è un aspetto politico fondamentale. Ma vorrei leggervi questa notizia che mi sembra molto importante perché fa un po', diciamo così, la storia di quanto è avvenuto, ragiona un po' su quello che è lo scacchiere e su quanta è stata la divisione fra ex Forza Italia, ex Alleanza Nazionale e quant'altro. Tutti scontenti o quasi, vista dalla parte della Ciociaria, la nuova giunta regionale del Lazio guidata dalla Polverini. A scrivere è proprio il direttore del Messaggero, della pagina Frusinate del quotidiano romano. Esponenti del partito di centrodestra e probabilmente anche molti sostenitori del PD e dell'UDC ieri al termine di una lunghissima giornata di trattative Il puzzle della giunta è stato completato, anche se restano grandi punti interrogativi. La squadra che governerà il Lazio nei prossimi 5 anni, al momento non ci sono rappresentanti dell'UDC. Non è andato in porto quindi il tentativo di mediazione portato avanti fino all'ultimo minuto, anche ieri. I Finiani, al centro di polemiche negli ultimi giorni, sono rappresentati da un solo esponente in giunta. La Polverini poi ha mantenuto per sé la delega alla sanità. Vediamo quanto riporta il Messaggero. La giunta risulta quindi così composta. Luca Malcotti sarà l'assessore alle infrastrutture e lavori pubblici. Marco Mattei invece sarà assessore all'ambiente. Fabiana Santini all'arte, sport, politiche e giovanili. Stefano Zappalà al turismo. E Made il Lazio. Mariella Zezza, la famosa giornalista di Rai News 24, andrà al lavoro e alle politiche sociali e alla famiglia. Fabio Armeni all'urbanistica del territorio. Francesco Battistoni sarà l'assessore alle politiche agricole. Teodoro Bontempo alla casa e alla tutela dei consumatori e al terzo settore. Giuseppe Cangemi agli enti locali e alla sicurezza. Stefano Cetica al bilancio. Antonio Cicchetti all'istruzione e alla cultura. Pietro Di Paolo Antonio alle attività produttive e ai rifiuti, Francesco Lollobrigida alla mobilità e ai trasporti. Politicamente parlando, la partita interna al PDL, prosegue il Messaggero, viene vinta dagli ex di Forza Italia. Così come si era capito, già da venerdì è finita 6-4 per gli ex forzisti, che tra l'altro hanno portato a casa anche la presidenza del Consiglio. Un assessorato è andato alla destra, Teodoro Bontempo, due alla lista Polverini, Cedica e la Zezza. Quanto al PDL nel dettaglio, fanno riferimento all'area degli ex Forza Italia i neoassessori Armeni, Battistoni e Cangemi, e ancora Marco Mattei, Stefano Zappalà e Fabiana Santini fanno invece riferimento all'area degli ex AN, Antonio Cicchetti, Francesco Lollobrigida, entrambi in quota Rampelli, Pietro Di Paolo in quota Alemanno, Luca Malcotti in quota Augello. Per gli ex AN un ridimensionamento, visto che si aspettavano un assessorato in più e che in molti leggono come una punizione per lo strappo di fini, ma anche come un avvertimento per scongiurare ulteriori dissensi. Alla fine soltanto due le donne nell'esecutivo, Mariella Zezza e Fabiana Santini, sono le uniche donne del nuovo esecutivo. Fino a ieri si era parlato di 5 rappresentanti femminili nella nuova giunta, invece il numero si è andato via via assottigliando. Niente da fare per la Cetrone, l'imprenditrice pontina sacrificata per far posto a Stefano Zappalà. Niente da fare neanche per Olimpia Tarzia, votatissima nella capitale, stessa fine anche per Alessandra Mandarelli, ex assessore della giunta Marrazzo. Vista l'esiguità della rappresentanza, c'è chi ipotizza un possibile ricorso. Lo statuto dice che non possono esserci più di 11 componenti dello stesso sesso e numeri alla mano, gli uomini al momento sono 11, quindi insomma la situazione non è che sia così granché tranquilla. Dicevamo che praticamente c'è questa posizione importante, diciamo così, dal punto di vista politico, ora a prescindere dalle varie esclusioni dei singoli, c'è questo disimpegno, chiamiamolo così, nella vita amministrativa dell'UDC, che pure ha contribuito in maniera forte, anzi forse anche determinante, alla scelta di Renata Polverini, prima come candidata e poi anche alla sua elezione. Allora, tu hai preso la notizia dal Messaggero, io vado subito sulla provincia perché c'è un fondo del direttore di Umberto Celani che va giù pesante, utilizzando con acume il manuale Cencelli, la Democrazia Cristiana ha governato il paese per quasi mezzo secolo, servendosene maldestramente. La nea eletta governatrice della Regione Lazio rischia di durare da Natale a Santo Stefano e di rendere inutile il grande sforzo elettorale delle province per portarla alla vittoria dopo il gran pastrocchio romano. Sta per succedere infatti che nella giunta Polverini non ci sarà spazio per un rappresentante di quella gente di ciociaria che con risultato quasi bulgaro ha dato un notevole mano al Popolo della Libertà per la riconquista della Pisana. E tutto ciò mentre vengono correttamente soddisfatte le aspirazioni di Latina, Viterbo e Rieti per la provincia pontina, addirittura facendo ricorso ad un esterno che ha avuto una partecipazione indiretta alla campagna elettorale. Rimane fuori dall'esecutivo Polverini per il gioco degli equilibri con il territorio romano e con i padrini del PDL, Franco Fiorito, che non è alla sua prima esperienza in consiglio regionale e che è stato il primo degli eletti che ha realizzato anche il record delle preferenze conseguite da un candidato in tutte le tornate elettorali per la regione, ben saldati invece di essere ridimensionati i romani che, non essendo stati capaci di presentare la lista, non hanno partecipato alla competizione, non ci hanno messo la faccia neanche le personali risorse. Sta per passare il principio del vince chi perde, ma qui non si sa, intorno ad un tavolo da gioco a carte la partita non è il traversone, è vero il 3-7 a perdere. Uno scandalo, una vergogna di fronte alla quale non si può nascondere l'indignazione e chiedere al popolo pidiellino ciociaro di ribellarsi mettendo da parte le divisioni interne, di far sentire la sua voce, di anticipare che la prossima volta non ci sarà trippa per gatti, che la nostra terra è stanca di dare senza ricevere, di essere trattata a mo' di vacca da mungere, e chi si è visto, non esistono ristori, sia chiara, non ci possono essere benefit a futura memoria, e chi si accontenterà di incassarli di fatto tradirà la sociaria, territorio e la gente. Se è vero come è vero che in questi giorni all'interno del PDL nazionale c'è il trionfo effimero di coloro che tengono famiglia, chiediamo una prova di orgoglio, il coraggio di dire no dinanzi agli avanzi dei commensali privilegiati. Tanto per ribadire meglio la situazione, la sociaria è fuori dal governo della Regione Lazio, gli incarichi di capogruppo del PDL o di presidente dell'Assise, oltre ad essere futuri ed incerti, non possono incidere sull'amministrazione del territorio e comunque risultano penalizzanti rispetto al passato. Vale la pena ricordare che con il governatore Storace in giunta c'erano Iannarilli c'erano Francesco De Angelis con il governo Teresa Formisano, scusate, con il governo Marrazzo c'erano De Angelis, Alessandra Maddaleli, sostituita poi da Anna Coppotelli, e Mario Michelangeli, senza considerare che la presidenza, la commissione sanità, si sono alternati Alessandro Foglietta e Luigi Canali. Ce n'è per essere indignati e per chiedere tutti gli accessi al nostro territorio. Quindi va giù veramente pesante. Sì, ma è pesante direttore. Anche la presa di posizione dell'esponente ciociaro dell'UDC forte, che sempre sul Messaggero dice cose abbastanza importanti: auguri e buon lavoro. E questo il laconico commento, scrive il Messaggero, di Lorenzo Cesa, il segretario nazionale dell'UDC, all'annuncio della composizione della giunta regionale guidata dalla Polverini. Un commento stringato con il quale si conferma l'intenzione del partito di Casini di dare un appoggio esterno alla giunta. Malgrado una giornata di febbrili riunioni, alla fine l'UDC è rimasta fuori, complicando ancora di più l'avvio della legislatura per la nuova governatrice. L'appoggio esterno dell'UDC rischia di pesare molto, intanto perché l'UDC ha 6 consiglieri regionali, non è poca cosa, e quindi al centrodestra al momento resterebbe una maggioranza non granitica, molto stringata. E poi perché Cesa ha fatto capire che l'UDC vigilerà sull'applicazione del programma. C'è da chiedersi come si comporterà quando, ad esempio, si dovrà già nei prossimi giorni votare il presidente del Consiglio regionale con votazione segreta, visto che su quella scelta non c'è accordo. Al di là delle questioni politiche generali, nell'UDC c'è chi è particolarmente di cattivo umore. Si tratta di Fabio Forte, sindaco di Arpino, primo dei non eletti in Consiglio. Non manda giù questo avvio di legislatura una giunta assenza, una giusta rappresentanza all'UDC, davvero incomprensibile. L'UDC doveva essere il fulcro della giunta Polverini, visti i programmi sbandierati in campagna elettorale. Per questo lancio un appello a rivedere questa posizione, a mantenere gli accordi precedentemente presi. Il nodo è questo: prima del voto l'UDC erano stati promessi 3 assessorati, la vicepresidenza, ma durante le trattative l'offerta si era fermata a 2 assessorati più la vicepresidenza. Ma quello che Fabio Forte proprio non riesce a digerire è una giunta senza assessori ciociari. Possibile mai che Frosinone non venga degnata neppure di un assessorato, sbotta. Non è possibile, prosegue il Messaggero, che si continui, nel riferire le parole dell'esponente politico dell'UDC, ad essere romanocentrici in tutto e per tutto. Non ne faccio una questione personale, ma Non è di me che sto parlando, mi chiedo come si possa lasciare fuori chi ha preso 25.000 voti, il riferimento è ovviamente a Fiorito, visto che non si sanno difendere, dice Severo Fabio Forte, gli esponenti del PDL li difendo io. A questo punto però Forte gioca l'ultima carta che ha per entrare in consiglio, il ricorso, dice, lo presento anche, e lo presento certo che lo presento anche con una certa sollecitudine. E restiamo sempre sull'argomento con il tempo, la Ciuceria resta senza assessori, regioni, è l'unico riconoscimento per Mario Abruzzese che avrà la presidenza del Consiglio. Non sono mancate le sorprese nella giornata di ieri, con tante voci che si rincorrevano, alla fine ieri sera finalmente, dopo una giornata particolarmente convulsa, è venuto fuori l'elenco degli assessori della Giunta di Renata Polverini, una scelta difficile a causa dei troppi nodi che andavano sciolti. Stando a quanto si è saputo in serata, la Giunta, quindi dice, la composizione della Giunta e mi sembra che ricalchi quella che è la situazione. A rimanere fuori sono i centristi dell'UDC, i nomi, come si può ben vedere, sono soltanto 13 e non 16, come era stato detto in precedenza. Tra quelli rimasti fuori anche il più votato in assoluto in Ciuceria, Franco Fiorito, del Popolo delle Libertà, che pare abbia rinunciato all'importante ruolo di capogruppo del PDL. Quindi qui dice che Fiorito ha rinunciato, però negli altri giornali questo non si evince. L'unico che invece ha avuto un ottimo riconoscimento è il secondo degli eletti del Popolo delle Libertà nella nostra provincia, con oltre 22.000 voti, Mario Abruzzese, che avrà l'importante incarico di Presidente del Consiglio. Inutile osservare che per il nostro territorio, se le cose dovessero restare così, sarebbe una grandissima delusione. Proprio quella provincia, che insieme a quella di Latina ha permesso alla ex sindacalista dell'UGL di poter guidare la regione più importante d'Italia, viene penalizzata. È proprio quella provincia che nella passata legislatura, quando al timone c'era Piero Marrazzo, aveva avuto tante gratificazioni con diversi assessorati. Restare senza assessorati dopo il grande contributo dato alle elezioni di marzo, quando il centrodestra ha superato in provincia il 60%, lascia davvero l'amaro in bocca. Restare senza assessorati, con le grandi potenzialità che il territorio ha espresso, è davvero difficile da digerire. Staremo a vedere come i rappresentanti del nostro territorio reagiranno a questa discutibile scelta. Di certo la Ciociaria meritava di più. Sì, anche il tempo nella pagina nazionale dice, ecco la Giunta del Lazio, più posti a Forza Italia, fuori l'UDC, nessun ruolo di governo a Frosinone, due donne in meno, l'ira delle correnti, non rispettate le indicazioni di Berlusconi, dentro Buontempo e Malcolti, sorpresa per Cetica e Zappalà, Mariella Zezza e Fabiana Santini, le sole rappresentanti del gentil sesso, prosegue il tempo, il quotidiano romano. Assessori, la Polverini ha assegnato 13 deleghe, leggiamo l'articolo del tempo, aveva detto entro domenica farò la giunta e così è stato, la fumata bianca della squadra di governo della Polverini è arrivata ieri sera e come ogni nomina che si rispetti non mancano le sorprese sotto tutti i punti di vista, numero dei partiti, sesso, territorio, innanzitutto sul numero, un neo assessore della giunta Polverini che firmeranno le deleghe probabilmente oggi, sono 13, non più 16 come la precedente giunta di centrosinistra. Poi sui partiti è assente l'alleato, l'UDC, e importanti correnti romani del PDL, ancora tra le donne solo 2-3 contando anche la presidente, ed infine la provincia, Frosinone è rimasta fuori dal governo regionale, anche se dovrebbe prendere il capogruppo in consiglio regionale con Fiorito. Nella neonata giunta Polverini sono gli ex di Forza Italia a farla da padrona, nel particolare le correnti di riferimento, Tajani e Scaiola, i nomi degli azzurri, Fabio Armeni, Francesco Battistoni, ma i nomi li abbiamo già letti prima, non li ripetiamo. Restano comunque ancora 2 assessorati disponibili, quello al personale non assegnato e almeno una delle deleghe accorpate ai 13 assessorati, la sanità, ricordiamo, fa capo alla stessa Polverini. La porta per un eventuale ingresso all'UDC sarebbe così rimasta chiaramente semi-socchiusa e chiaramente questa porta potrebbe, diciamo così, riservare un minimo di speranza per i partiti di Casini per poter ricucire questo strappo, anche se mi sembra una soluzione minimale, non più come era invece previsto negli accordi che abbiamo letto precedentemente, dando lettura degli articoli precedenti sul Messaggero, che mi sembrava molto dettagliato su quello che era il resoconto degli accordi intercorsi in fase di candidatura e poi non rispettati. Di qui la decisione dell'UDC di rimanere fuori e di appoggiare almeno per il momento esternamente la Giunta. Forse abbiamo parlato troppo? Non lo so, io cercavo su Ciociaria notizie, ma evidentemente Ciociaria rimane abbottonata, perché non c'è nulla che riguarda la composizione della giunta regionale. Evidentemente è una scelta editoriale, perché è un quotidiano chiaramente che ha una sua, come dire, una sua impostazione anche politica, e evidentemente l'editore Ciarapico ha preferito evitare di entrare a pieno spinto nella polemica, ma credo che però nei prossimi giorni comunque qualcosa ci sarà sicuramente. Bene, abbiamo dato notizie allora di tutto quello che riguarda la composizione della nuova giunta, chiaramente prendendo dal punto di vista della stampa locale. Dicevamo all'inizio della trasmissione che sul nostro sito internet invece c'è il resoconto della manifestazione di sabato. Sentiamo un audio. Un unico no, senza se e senza ma, all'inceneritore Vieti della nostra città. Ed sarà uno dei tanti che si succederanno nella Valle del Sacco, già ce ne sono altri, e questo sarà implementato sempre di più. Noi riteniamo questo. Quindi ci siamo riuniti per dire un secco no a questa ipotesi che cambia la natura addirittura di uno stabilimento che era nato per produrre le gomme e invece si sta trasformando in una pattumiera. Quindi noi adesso inizieremo il corteo, arriveremo su in piazza Cavour e poi ci sistemeremo sotto il portico comunale, dove ci saranno le autorità a cui chiederemo, esprimeremo questa nostra posizione e chiederemo di confermare questa nostra posizione, di sostenere questa nostra posizione anche all'interno della conferenza dei servizi, che sarà determinante per l'approvazione di questo nuovo impianto di incenerimento. Un attimo di pazienza, aspettiamo ancora qualche minuto che si aggiunge qualcun altro e poi inizieremo il corteo, che sarà molto ordinato. Io direi di lanciare degli slogan improntati a questo no secco, senza se e senza ma. Quindi vediamo un po' se ci troviamo l'aria fina. No, no, no, l'inceneritore no. Sì, allora, nel frattempo, mentre scorrono le immagini, chi è sintonizzato in questo momento sul sito di radioernica.com può vedere lo scorrere dei trattori e dei manifestanti lungo corso Via Vittorio Emanuele. Sono arrivati quasi all'altezza di Largo Perfetti, quindi prosegue questa lunga ed infinita carrellata di mezzi meccanici, ce n'erano oltre una quindicina, e soprattutto un gran numero di partecipanti, vari striscioni delle organizzazioni ambientaliste presenti sul territorio. Non ne voglio dimenticare nessuna, quindi leggo: la Rete per la tutela della Valle del Sacco, l'Associazione Anagni Viva, l'Associazione Diritto alla Salute, i comitati cittadini Vox Populi, Osteria della Fontana, Ponte del Papa, la guerra di Piero, penso di non averne dimenticato nessuno. Quindi vi ricordo che in questo momento sono visibili sul sito di radioernica.com le immagini, tra un po' ascolteremo anche gli interventi che si sono poi man mano succeduti al termine della manifestazione, con il raduno finale dei partecipanti che è avvenuto sotto il portico comunale, il palazzo comunale Jacopo d'Aiseo ad Anagni. Chiaramente ci sono stati interventi del rappresentante della DAS Sandro Compagno, lo abbiamo ascoltato in apertura al momento della partenza da Porta Cerere, poi c'è stata la rappresentante di Anagni Viva Anna Natalia e ancora altri esponenti del mondo sindacale del settore agricolo, la CIA, la Coldiretti e la Conf Agricoltura, ed infine poi il breve dibattito che ha visto impegnato gli organizzatori della manifestazione e il sindaco di Anagni, Carlo Noto. Ora dovrebbe riprendere anche parte dell'audio. Autorità dei nostri rappresentanti che tutelino la nostra salute. No, no, no, inceneritore no. No, no, no, Carplast no. No, no, no, inquinamento no. Sì, approfittiamo perché poi ci sono anche dei pezzi che riguardano la parte finale. Dicevo, approfittiamo per dire che comunque è stata una bellissima manifestazione, pacifica e molto nutrita anche in termini di persone. Si è parlato di circa 1000 persone, ma credo che fossero anche qualcosina in più, soprattutto con tutte le associazioni presenti e schierate, le associazioni territoriali. Quindi credo che sia un fatto estremamente positivo per la nostra città. Sì, anche perché la presenza delle associazioni agricole, che hanno preso anche una posizione piuttosto forte su questo argomento, non è assolutamente da sottovalutare, perché mi sembra anche molto ma molto importante. In questo momento chi è sintonizzato online sul nostro sito può vedere lo striscione del diritto alla salute portato da alcuni giovani della città di Anagni. Immediatamente a seguire a questo striscione c'è quello dell'associazione della Guerra di Piero, e poi a seguire ancora altri che al momento non vedo ancora inquadrati sul video, ma c'è man mano che si stanno portando le varie organizzazioni verso il termine della manifestazione. In conclusione, dicevamo, la presenza del sindaco Noto, la organizzatrice, la esponente di Anagni Viva, la professoressa Anna Natalia, è riuscita a far strappare un no per quanto riguarda la posizione del sindaco e del comune di Anagni. In questo momento non leggo lo striscione che sta passando sulle immagini che abbiamo dal sito in diretta in questo momento. Dovrebbe essere uno striscione dell'Osteria della Fontana, del comitato di quartiere dell'Osteria della Fontana. Ecco, infatti sta proseguendo, salendo in questo momento nelle immagini che vanno in onda la manifestazione all'incirca all'altezza dell'ex scuola media Sant'Angelo Giovanni Vinci Guerra, quindi la famosa piazzetta della cosiddetta Veduta ad Anagni. E vedo una partecipazione massiccia da parte della folla. Sì, tra l'altro la parte proprio del comitato di Osteria della Fontana è la parte più numerosa del corteo, anche perché a Osteria della Fontana il problema ovviamente è molto sentito, e lo dimostra, ripeto, la grande partecipazione. Osteria della Fontana è una zona che vive con grande disagio la presenza di insediamenti industriali vicinissimi alla zona abitativa, poi anche per una questione, diciamo così, di microclima, la zona bassa di Anagni, si registrano le problematiche più forti sotto il profilo ambientale. E qui, ecco, le immagini adesso che scorrono sono veramente moltissimi cittadini di Osteria della Fontana che partecipano a questa iniziativa. Adesso ci sono anche le immagini dell'amministrazione comunale che ha sfilato anch'essa all'interno del corteo. Sì, anche perché ricordiamo, Osteria della Fontana è un insediamento abitativo piuttosto consistente, ma anche il fulcro di quella che è l'attività produttiva agricola della nostra città. Osteria della Fontana, San Filippo e Tufano, ricordiamo, sono i tre territori maggiormente rappresentativi nel mondo imprenditoriale agricolo, e quindi il tema è piuttosto sentito, ma non solo in questo aspetto, anche perché abbiamo visto numerosissimi cartelli inneggiando alla salute, chiaramente, dei singoli cittadini, quindi non solo le organizzazioni sindacali, non solo il settore imprenditoriale agricolo, ma tanta vita civile, tantissimi giovani, devo dire, dire, erano molto presenti, i giovani sono fatti sentire anche con i loro coloriti slogan di protesta nei confronti chiaramente dell'azienda che va e andrebbe a chiaramente ad insediare questo inceneritore. Oddio, se ne è sentito uno poco fa, un po' troppo colorito, diciamo, di slogan che fa rima con l'azienda che dovrebbe realizzare il termocombustore, diciamo, nuovo. Però la persona che ha fatto questo slogan è stato prontamente ripreso dalla moglie, che evidentemente ha visto la telecamera e ha pensato che non era il caso di andare oltre, diciamo. Allora, altri striscioni a voi, sì, milioni, vorrei... a noi tumori, per esempio. Allora, sentiamo adesso la parte con il sindaco e l'autorità. Vediamo, no, no, fatto. No, Carflap, no, anche me, no, no, no, il Carflap, no. Allora mi suggeriscono che forse questa funziona meglio, questo slogan. No, no, no, la diossina no. No, no, no, la diossina no. Carico di fare da portavoce un po' per questa assemblea. Devo dire che non mi era mai capitato di parlare in piazza, però è un'esperienza straordinaria. Grazie a tutti. Noi abbiamo naturalmente una scaletta per lo svolgimento di questa assemblea, che non deve essere né lunga né ripetitiva né noiosa, ma deve tendere a mettere in chiaro il più possibile i punti essenziali per cui siamo tutti qui. E quindi la ragione che ci spinge da oltre un anno e che ci ha portato ad organizzare comitati ed associazioni è la ragione legata a quello che voi tutti sapete, il no, come ripetevano gli slogan, all'inceneritore di Carflap. Le ragioni di questa incompatibilità noi le abbiamo esposte già in due convegni, in articoli, in manifestazioni e in ogni altro modo. Le ragioni di questa incompatibilità per un progetto presentato dall'azienda che attualmente che smaltisce per pneumatici esausti, di adeguare il suo inceneritore a poter smaltire questo materiale giudicato altamente tossico e pericoloso dagli studi scientifici normali internazionali. Questo progetto è in discussione all'ufficio VIA della regione, che dovrebbe dare l'approvazione o la disapprovazione. In questo anno si sono succedute conferenze dei servizi che hanno richiesto spiegazioni e integrazioni all'azienda per poter avere l'approvazione del progetto di adeguamento del Carflap. Il Carflap, in pochissime parole, è un materiale costituito in grandissima misura dalle sostanze, dal materiale plastico risultante dalla rottamazione degli autoveicoli. Queste materie plastiche, bruciando, producono una grande quantità di materie di emissioni altamente inquinanti, di cui la più pericolosa è certamente l'emissione di diossina. Tutto questo è stato rilevato non da occasionali interventi di analisi o di controlli. È stato rilevato dalle analisi condotte dagli istituti e dagli enti pubblici, istituzionali, la cui pubblicazione costituisce materiale che è il materiale a disposizione dell'ufficio regionale, che dovrà esprimersi sull'approvazione o il rifiuto dell'inceneritore di Carplaf. Perché noi abbiamo sostenuto le ragioni dell'incompatibilità? Perché questa vicenda ha, non soltanto, questo lo diremo brevemente tra poco, questa vicenda vede la trasformazione di una produzione in un'altra, vede una ragione fondamentale per la quale ci battiamo, ed è quella che l'incompatibilità ha in primo luogo assolutamente la necessità di difendere la salute della popolazione e dell'ambiente. Primo punto, assolutamente. Noi siamo qui con Diretti, con Agricoltura e CIA per ribadire il nostro sostegno. La nostra lotta è quotidiana, parte da prima, dall'inquinamento della Valle del Ciacco. Ancora stiamo pagando le conseguenze. Abbiamo abbattuto centinaia di animali. Sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Come in questo caso, credo che questo detto calzi a pennello. Credo che tutti quanti siamo stati in passato favorevoli all'industrializzazione di questo territorio, perché probabilmente all'epoca l'agricoltura non era sufficiente a dare quei risultati in termini di redditività che potevano consentire la permanenza sul nostro territorio dei cittadini. Oggi ci siamo resi conto a distanza di tempo che l'industrializzazione selvaggia ha portato un disastro ambientale notevole che ha penalizzato in gran parte gli agricoltori di questo territorio. Ancora stiamo pagando le ferite della distruzione della Valle del Sacco. Credo che questo evento così forte, così impattante, dovrebbe essere un deterrente per tutti per percorrere nuove strade, che sono le strade che tutti i politici in qualunque convegno dicono di voler perseguire, che sono quelli in pratica di un nuovo sviluppo fondato sull'agricoltura, sul turismo, su delle attività che possono dare ancora prospettive di sviluppo e ritorno economico per gli abitanti di questa provincia. Non si riesce a comprendere però. Si è fermato un attimo l'audio. Sì, deve proseguire, c'è sicuramente ancora vediamo da ascoltare. Se c'è la seconda parte allora. No, devi andare avanti, devi allora, riprendere con calma. No, sempre sullo stesso. Sempre qui? Sì. Allora, intanto abbassiamo il canale dell'audio. Pian pianino ritorniamo su quella che è la trasmissione. Un attimo, piano piano, perché riprendiamo subito immediatamente dopo questo intervento. C'è sicuramente l'intervento del segretario, del direttore provinciale della Coldiretti Gianni Lisi, e poi a concludere c'è il dibattito con il sindaco e Anna Natalia. Aggiorniamo nuovamente il sito perché altrimenti le immagini non ritorna, stiamo facendo no? Tutto in diretta, piano, dai. Ultra diretta praticamente, vediamo se riusciamo a farla ripartire. No, non riparte. Allora vogliamo fare una cosa, facciamo una brevissima pausa, anche perché insomma credo che sia già mezz'ora che stiamo in vostra compagnia. Sì, siamo arrivati alle 18:33 minuti primi, chiaramente uno spazio brevissimo di pubblicità e di musica per tornare poi immediatamente in diretta da Radio Ernica. Non chiedermi perché, ne ho abbastanza dei tuoi sé, dei valori, dei

amore naturale, liberare l'animale quasi chiuso dentro te. Come api sopra un fiore, fare miele, far l'amore, dimmi tu che male c'è. Una donna sul cuscino, come panna sul budino, ti condanna ad un destino di golosità. Ogni riccio è seduzione, un capriccio mascalzone, un pasticcio d'emozione che ti sazierà. Libera la mente, poi prendi il via, sfodera un ventaglio di fantasia. Libera l'amante che è sotto la pelle, prendi appuntamento con tutte le stelle. E spazzola i capelli dai pensieri più cattivi, brutti e seri. E frizzola la lingua in bocca che acquolina, oh. E ruzzola di gioia sui sentieri dei problemi giornalieri. E spizzica le labbra e non potrai più dire no. E alza la sottana, socchiudi la persiana, poi guarda che ruffiana la femminilità. E dammela la mela, sai quanto mi fa gola, se te la mangi sola, che gusto ci sarà. In amore naturale, catturare l'animale, quasi arreso dentro me. Come alici sotto il mare, sal di sale far l'amore, dimmi tu che male c'è. Scordati la gente, la frenesia, togliti il guinzaglio, l'ipocrisia. Tuffati in un mondo di morbida pelle, mettiti al volante di un carro di stelle. E spezza la catena del pudore, poi scatena i desideri. E frizzola la lingua in bocca che acquolina, oh. E sfizia la mia schiena col calore delle mani e dei sederi. E vizia la mia voglia, che peccato dire no. E alza la sottana, socchiudi la persiana, ma guarda che ruffiana la femminilità. E dammela la mela, sai quanto mi fa gola, se te la mangi sola, che gusto ci sarà. E alza la sottana e apri la persiana, che figlia di puttana la femminilità. E guardila la mela, tua rosa nella gola, su cosa ti consola, che gusto che mi dà. Dammene di dammela la mela, la morderò. Dammene di te la mela, non te la perderò. Dammene di dammela, lo sai, non la mangerò. Allora, la canzone si intitolava Peccati di gola. Patrizio Bau era l'interprete di questa canzone. Devo fare una rivelazione che sotto certi versi è anche, diciamo così, molto importante per noi. Noi stavamo per l'appunto mandandovi in onda quella che era la trasmissione registrata in audio e video sul nostro sito, su radioernica.com, di quella che era la manifestazione che si è svolta sabato scorso contro il Carflaff. Abbiamo contemporaneamente ben 400 utenti in linea con Radio Ernica, che non è cosa da poco conto. Ci ha un po', diciamo così, mandato in tilt il nostro server, che non è che sia granché così, diciamo, molto potente, e praticamente ha mandato in tilt anche quella che è la nostra situazione informatica. Cercheremo di riprendere la cosa, ci fa molto ma molto piacere. Vi ringraziamo per la vostra così importante partecipazione a quelle che sono le nostre notizie che vi proponiamo sul nostro sito. Allora, nel mentre tu cerchi di ripristinare questo collegamento, noi naturalmente ringraziamo anche però gli utenti che si sintonizzano su www.radioernica.com, perché a noi fa piacere naturalmente. C'è una inchiesta su Ciociaria Oggi molto importante, devo dire, sugli incidenti stradali. Ogni anno in Italia scompare un paese di 7.000 persone. La situazione in provincia, ogni anno appunto scompare un paese di 7.000 persone, Ogni giorno in Italia si verificano in media 598 incidenti stradali che provocano la morte di 13 persone e il ferimento di altre 849. Nel complesso, nell'anno 2008, gli incidenti stradali rilevati sono stati 218.000, quasi 219.000. Una vera e propria mattanza che ogni anno causa il decesso di più di 4.700 persone, rappresentando la prima causa di morte per le fasce d'età comprese tra i 15 e i 35 anni, mentre sono oltre 300.000 quelle che registrano lesioni di diversa gravità, secondo i dati Istat presentati alla fine dello scorso anno. Secondo l'ASPS, Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale, l'Italia rimane uno dei paesi europei con il maggior numero assoluto di vittime, superato solo dalla Polonia che nel 2008 ha contato 5.437 morti. Ma a partire dal 2000 gli incidenti complessivi sono calati del 14%, i morti del 33% e i feriti del 13%. Tra l'altro nei primi 8 anni del terzo millennio il parco veicolare è cresciuto del 17% rispetto al 2007. C'è però un luogo nel quale l'Italia ha brillato in materia di sicurezza stradale, l'autostrada. È proprio lì infatti che il numero di vittime dal 2001 ad oggi è più che dimezzato. Nonostante la spinta autostradale, però, l'obiettivo comune di tutta l'Unione Europea è di dimezzare la mortalità per incidenti stradali. Come si risolve questo problema? Servono più prevenzione e cultura della sicurezza, porre un freno alle stragi sull'asfalto e dare giustizia e assistenza a 360 gradi a coloro che perdono una persona cara tra le ferraglie dell'auto e dell'incoscienza civile. Sono questi gli scopi che dal 2005 spingono Franco Cocco, responsabile provinciale dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, e Claudio Martino, coordinatore, a portare la voce di chi ha voce sulle strade e fra i guardrail della provincia, una voglia di lottare che nasce anche dalla consapevolezza che solo chi ha vissuto simili tragedie può acquisire. Il 20 febbraio del 2004, infatti, Franco Cocco perse il proprio figlio, 17enne Roberto, in un incidente mortale tra il suo motorino ed un camion. Una vicenda che ha dato a Franco e Claudio la forza necessaria per promuovere la logica della responsabilità. È in programma anche un concorso scolastico per sensibilizzare le coscienze, un'iniziativa per ricordare e promuovere la cultura della sicurezza e far riflettere i giovani sulla responsabilità alla guida. Tutto questo è il premio Roberto Cocco, che nel 2005 entra nelle scuole elementari, medie e superiori grazie alla sezione provinciale dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada. Il riconoscimento intitolato al 17enne scomparso nel 2004 in un incidente sulla Monti Lepini avrà come tema quest'anno la possibilità di conciliare il divertimento e l'uso moderato di alcol con un livello minimo di sicurezza per gli utenti della strada. Stringante attualità, insomma, con i ragazzi chiamati a elaborare un tema sull'argomento. I premi consistono in buoni acquisto fino a 100 euro e biglietti gratis per il cinema. Chi vuole avere informazioni, chi vuole partecipare alle iniziative dell'associazione può collegarsi con il sito internet www.premiorobertococco.it oppure vediamo se c'è anche un indirizzo email: martino1952@hotmail.com. Quindi questi sono i riferimenti. Una bella pagina, devo dire, di Ciociaria Oggi, una pagina, un'inchiesta a cura di Alessandro Redi Rossi, Federica Sevi e Danilo Del Greco. Allora, io volevo invece soffermarmi un attimo, perché ci accusano sempre di avere un po' troppa informazione politica e poco di altri argomenti. In modo particolare veniamo, diciamo così, tacciati di non parlare quasi mai, anzi poco e per niente, di sport. La notizia che fa notizia, scusatemi il ripetersi delle parole, ma parliamo di quello che è l'esonero del tecnico del Frosinone Moriero, che è stato chiaramente esonerato dopo purtroppo i tanti risultati negativi della squadra canarina, che dalle posizioni di vetta purtroppo è passata nei bassi fondi della classifica di Serie B, e ha solo una lunghezza dal quintultimo posto, che significa play-out, cioè il giocarsi la permanenza in Serie B con uno scontro diretto con la quart'ultima. Il Frosinone manda via Carboni, titola la Provincia nella pagina sportiva, il Frosinone esonera Moriero e chiama Carboni. Il neo allenatore si incontra con la squadra. Guido Carboni, 47 anni, toscano di Arezzo, è il sostituto di Francesco Moriero alla guida del Frosinone a 5 giornate dalla fine della stagione. Il comunicato ufficiale della società, che è apparso ieri sera sul sito ufficiale della squadra canarina, che mettevano fine alle voci che si erano rincorse sin dal mattino nella città e che vedevano appunto l'esonero dell'allenatore Moriero, soprattutto dopo la brutta partita persa per 4-1 a Bergamo contro l'Albino Leffe. E la notizia per l'appunto è sopraggiunta nella notte, prosegue la Provincia, dopo una lunga riunione tra il presidente Stirpe, Graziani ed Ortoli, che sono i suoi più stretti collaboratori. Il massimo dirigente giallo-azzurro si era preso 24 ore di tempo, ma in effetti la scelta era già ristrettissima ad un nome, quello appunto dell'ex tecnico del Rimini, squadra con la quale è sfortunatamente retrocesso al termine della passata stagione ai play-out con l'Ancona. Il neo allenatore frusinane fu costretto ai play-off dopo 3 vittorie su 5 partite per il pareggio del Pisa al 94esimo al Neri. Carboni nelle precedenti 2 stagioni di Serie B aveva avuto un'esperienza negativa alla guida dell'Avellino, poi retrocesso con Calori e prima ancora alla guida del Crotone, dove aveva rilevato Gustinetti. Per dovere di cronaca c'è da dire che Carboni conosce quindi dell'attuale Nosa Canarina, il centrocampista Bascia, e con lui che ha giocato a Rimini, ma anche Cariello, per averlo avuto nelle dirette dipendenze in Calabria, come conosce anche Santoruvo, che ha guidato quando ha allenato il Bari, e ancora anche prima nella Viterbese, dove per l'appunto il neo allenatore del Frosinone ha ricoperto l'incarico della guida tecnica di questa squadra, altra squadra laziale. Le speranze di salvare il Frosinone sono poche, ma insomma il presidente Stirpe dice che cercherà in tutti i modi di spronare la squadra affinché questa riesca a mantenere la categoria, che non è poca cosa per il capoluogo e per l'intera provincia di Frosinone. Sì, io ho quest'altra notizia. Praticamente c'è stato un blitz in provincia di Frosinone sulla zona di Cassino. I carabinieri hanno fatto irruzione anche nell'ospedale Santa Scolastica di Cassino, decine e decine gli uomini che hanno controllato che chi avesse timbrato il cartellino fosse realmente al lavoro. I carabinieri, una cinquantina in tutto, hanno presidiato tutte le vie di uscita ed hanno verificato la posizione dei dipendenti, del personale medico e degli altri lavoratori. L'obiettivo era uno: smascherare eventuali fannulloni. E proseguono gli accertamenti dei carabinieri dopo l'arresto del tecnico di radiologia assenteista all'ospedale del Prete. I militari dell'arma stanno effettuando riscontri mirati per verificare singole responsabilità dirigenziali, insomma per capire se qualcuno avrebbe dovuto vigilare e non lo ha fatto. Gli uomini del capitano Pier Francesco Di Carlo stanno esaminando il corposo fascicolo assemblatosi dopo il blitz antiassenteista nel polo sanitario di Cassino Pontecorvo. Nella giornata di ieri ci sarà ci sarà un summit presso la Procura della Repubblica di Cassino fra investigatori e inquirenti, anche perché si attende la fissazione dell'udienza di convalida per il 51enne arrestato in flagranza di reato. L'uomo difeso dall'avvocato di fiducia Emanuele Carbone presto comparirà davanti al giudice delle indagini preliminari, al quale potrà esternare la sua versione dei fatti. Insomma, credo che sia anche necessario un giro di vite di questo genere, anche perché lo ricordiamo che la vicenda relativa all'assenteismo nella sanità sociale è spesso rimbalzata nelle cronache televisive con la trasmissione serale di Canale 5, molto vista, di cui però ho un lapsus, mi sfugge il nome, la trasmissione delle 8:30 dopo il telegiornale con Ezio Greggio, Striscia la notizia. Ecco, adesso è tornato il nome. Allora, dicevamo, Striscia la notizia era andata a Ficcanasare in molti ospedali della zona e aveva trovato situazioni davvero incresciose di persone che non erano presenti e praticamente timbravano il cartellino. Mi pare che siamo tornati al punto di partenza con il video, allora che facciamo? Riproviamo a sentire l'ultima parte della manifestazione di sabato contro il Carflaf. È l'intervento conclusivo del direttore provinciale della Conf Agricoltura. Ha portato un disastro ambientale notevole che ha penalizzato in gran parte gli agricoltori di questo territorio. Ancora stiamo pagando le ferite della distruzione della Valle del Sacco. Credo che questo evento così forte, così impattante, dovrebbe essere un deterrente per tutti per percorrere nuove strade, che sono le strade che tutti i politici in qualunque convegno dicono di voler perseguire, che sono quelli in pratica di un nuovo sviluppo fondato sull'agricoltura, sul turismo, su delle attività che possono dare ancora prospettive di sviluppo e ritorno economico per gli abitanti di questa provincia. Non si riesce a comprendere però come mai questi buoni propositi poi all'improvviso scompaiono davanti a degli interessi così, così forti. Qui non c'è solo un dubbio, un sospetto di inquinamento, qui ci sono prove certificate di inquinamento di diossina, quindi non riesco sinceramente a comprendere come mai oggi in questo incontro non siano presenti tutti quei rappresentanti che tutti quanti noi abbiamo contribuito a fare eleggere alla Regione Lazio solo pochi giorni fa. E non è un discorso di colori politici, io non ne vedo nessuno oggi qui, vedo il sindaco, gli amministratori del comune di Anagni che probabilmente sono quelli più sensibili a queste problematiche perché sono più vicini ai cittadini e alle loro esigenze. So che il comune ha anche fatto un provvedimento per dire no a questo tipo di impatto. Non vedo però, ecco, questi rappresentanti che dovranno domani decidere alla regione assieme a chi darà l'impulso politico, perché certo non lo decideranno i funzionari della regione se questo impianto deve partire o non deve partire, se l'autorizzazione deve essere data o non deve essere data. Ci deve essere l'espressione di una volontà politica. Allora mi chiedo, ma possibile oggi che la politica parla sempre di filiera, no? In passato ci si è sempre celati dietro a questa impossibilità a volte di interlocuzione tra le diverse istituzioni perché erano rappresentanti di parti politiche diverse. Oggi dovrebbero parlare tutti quanti la stessa lingua. Allora, come mai questa risposta, che è solo no, il no del comune, il no della provincia, è il no che proviene dai cittadini, che deve essere recepita anche dalla regione? È una domanda, lo vogliamo fare a tutti i nostri rappresentanti che sono stati eletti alla regione? Sono orgoglioso, vedo una platea immensa. Bene, vi rubo 5 minuti. Io in questi giorni la polemica si è fatta forte, si è fatta per una motivazione che riteniamo davvero, io dico, sciocca. È davvero impensabile addossare una responsabilità. Ah, perfetto. Allora, dicevo, in questi giorni si è innescata una polemica circa il famoso mangime, il mangime killer, che sarebbe responsabile dell'inquinamento, della diossina che viene registrata dalla ASL. Io ho parlato in termini, come dire, un po' ironici. Se così fosse, ho scritto, probabilmente metà delle ricette della cucina italiana dovrebbero, come dire, essere messe in un camino. Io la polemica la finisco qui. Stamane ho cercato di mandare un messaggio molto chiaro, molto trasparente. È una sfida. Io sono a disposizione per un incontro, e con un incontro dove la parte scientifica non viene soltanto da un lato, oppure non è soltanto una paginetta estratta da un rapporto vecchio del 2006. Possiamo fare un ragionamento moderno, nuovo, io con la mia parte o con la nostra parte, e la controparte può portare chiunque. Così vedremo che cosa hanno fatto tre coltivatori con i loro 18 polli. La realtà è ben diversa. La realtà è che l'inquinamento che c'è attualmente, che c'è oggi registrato, è di tutt'altra matrice e probabilmente ha una ragione certa. Per cui è inutile continuare con questa polemica. Io ci ho messo la faccia. Se qualcun altro vuole mettercela, mi risponde, oppure mi invita ufficialmente e vedremo esattamente di chi è la responsabilità. Ci uniamo al coro, alla vostra preoccupazione, e non vi lasceremo affatto soli. Per quella battaglia. Per quella battaglia della diossina, per le battaglie future e per dare soprattutto dignità alla categoria. Io mi interesso dei coltivatori diretti, mi interesso, ma questo non significa che io non stia dalla parte della popolazione tutta, cioè noi facciamo ragionamenti dignitosi, altissimi, tracciabilità, rintracciabilità, prodotti salubri, salute, campagna, ambiente, per cui la lotta che state facendo in maniera molto civile è anche la nostra lotta. Continueremo per questo, e soprattutto non devono vincere sempre i più ricchi o i più benestanti o i più forti, devono vincere quelli che hanno perfettamente ragione. Grazie. Ci si disperda in una serie di discorsi che al momento non hanno grande rilevanza. La prima domanda è molto semplice e secca. L'amministrazione comunale quale parere esprimerà in sede di conferenza dei servizi? Un parere favorevole o contrario all'inceneritore? E come motiverà il suo parere? Con quali argomentazioni dirà sì o no? Non posso dare una risposta secca, ma dirò tutto quanto. Dunque, andare in conferenza, prima cosa, dovevo giustificare, oppure la mia espressione è anche quella del consigliere regionale Fiorito, che ha detto che non è presente perché sono in consultazioni, e voi sapete che domani uscirà l'esecutivo. Quindi mi ha detto comunque la mia espressione è anche il suo pensiero, quindi, e questa ve la lascio per dopo. Per quanto riguarda l'amministrazione, io penso che noi già ci siamo espressi più volte su quello che era il nostro parere, su quello che è il mio parere riguardo il CARFLAF, so perché già ho manifestato più volte che secondo me il CARFLAF è una sostanza altamente tossica, quindi non posso accettare un ulteriore inquinamento sulla Valle del Sacco, perché per me Anagni e tutta la Valle del Sacco già ha dovuto subire supinamente quello che è un inquinamento, quello che è il degrado totale di quella della Valle del Sacco. Non posso parlare come sanitario, perché l'azienda ASL mi ha detto che noi rientriamo in quelli che sono i parametri nazionali, però io ci tengo a sottolineare, ad affermare, che per me la Valle del Sacco è stata inquinata. Come dicevo, Anagni ha dovuto subire già nell'anno 99 la presenza di un termocombustore che secondo i parametri e secondo i reporter che ultimamente sono arrivati alla mia visione, alla visione del sindaco, perché qui voi sapete che è stata sempre una mia forte contestazione il non poter leggere i reporter di questo termocombustore della Marangoni. E faccio il nome perché è della Marangoni, anche se ho diffide dalla ditta. Comunque io non posso ancora permettere, e vi dico, nel 99 è stato messo questo termocombustore, ma per bruciare solo pneumatici. Oggi sappiamo che vogliono forse per business economico, vogliono bruciare qualcosa che dia più energia e che forse dà più guadagno, il car fluff. Quindi a questo punto io non posso che bocciare la presenza del car fluff in un termocombustore, tanto più su quello che è accaduto ultimamente e che poi con l'azienda ASL, con l'ARPA, con la provincia ci siamo sentiti più volte. Il dottor Caverna, che è qui presente, è stato a mio sostegno e mi ha dato sempre le risposte delle analisi alle mie richieste. Con l'azienda ASL Frosinone ho avuto sempre le risposte e mi hanno documentato quello che è l'inquinamento, vedi anche la diossina. Quindi abbiamo la mia amministrazione ha chiesto e sta pagando insieme alla provincia ulteriori accertamenti, ne abbiamo fatti parecchi, ormai siamo circa 30 campionamenti, il dottor Caverna mi può essere forte su questo. Questi campionamenti abbiamo visto che la diossina è ancora presente in alcune zone, è ridotta notevolmente in altre zone, quindi l'inquinamento almeno per determinate sostanze è andato a regredire. Quindi ora saranno i tecnici a dover trarre le somme, ma più che tecnici io ho interessato la Procura della Repubblica, quindi ho fatto questo esposto a mia firma e per tutta la città di Anagni, perché il sindaco rappresenta tutta la città di Anagni, a mia firma ho fatto un esposto al Procuratore della Repubblica affinché cercasse con giustizia cercasse l'inquinatore, l'ulteriore inquinatore della nostra Valle del Sacco per quanto riguarda la diossina. E poi a dire il vero come ufficio non sto fermo, voi vedrete che giornalmente, come già è accaduto, ma i giornali penso che nei giorni futuri dovranno parlare anche di altre anomalie, sto attento e sto guardando con i miei tecnici quello che sta accadendo e che è accaduto sul nostro territorio. Per quanto riguarda poi l'inquinamento, questo inquinamento riguardiamo più che inquinamento, parliamo del car fluff. Giorni fa ho dato, e poi vi dico il perché, ho dato incarico a un team di tecnici, ma io penso che questo arriviamo di modo che, perché questo serve dare, scusatemi però io devo dire che ho dato un incarico a un team di tecnici perché, e vi dico il perché. Perché questo serve ad andare alla conferenza dei servizi, perché mi dicevano prima la conferenza dei servizi serve il politico, la conferenza dei servizi e ci hanno sottolineato che è solo un parere tecnico. Ecco perché io avrò dei tecnici, questa è la domanda che mi facevi, ho dei tecnici che mi daranno supporto su come devo comportarmi alla conferenza dei servizi. Alla conferenza dei servizi, e qui arrivo alla domanda clou che voleva la professoressa Natalia, il sindaco Noto voterà con 2 punti, perché oggi da 3 sono sceso a 2 e con rammarico devo dire da 3 sono sceso a 2 perché è uscita fuori l'ASI e bisogna vedere perché è uscita fuori l'ASI, comunque da 3 sono passato a 2, ma il sindaco Noto sui 2 punti voterà no. Bene, questo, ascoltare questo ci fa molto piacere, forse è opportuno perché alimento di tutti. In conferenza dei servizi, quale situazione si presenta? Questo ufficio regionale è costituito, ha a disposizione, diciamo, 8 voti distribuiti in 2 ai rappresentanti della regione, 1 alla ASL, 1 all'ASI, e su questo ci sarà una cosa da chiarire, 2 ai rappresentanti della provincia di Frosinone, 2 ai rappresentanti del comune. Fino al 7 aprile scorso il comune era titolare di 3 voti e la provincia di 2, per cui si profilava un certo risultato. Nella conferenza del 7 aprile, come ha accennato il sindaco, al comune di Anagni è stato sottratto un voto che è stato dirottato all'ASI, cioè all'azienda sviluppo industriale. Ora mi dicono, questa sottrazione di voto, al di là delle, come dire, al di là delle procedure che possono individuarne o meno la possibile illegittimità, perché detto in parole povere non ci piace l'idea che in corso di lavoro vengano cambiate le regole. Questa conferenza da ottobre aveva così ripartito i voti per chi era presente, all'improvviso ci si ritrova con un voto in meno e guardate un po', un voto sottratto proprio a chi dovrebbe essere il primo interessato a tutelare la salute del direttore. Ora quindi dicevo, non entriamo nel discorso di dire se tutto ciò può far avanzare dei dubbi sulla legittimità di questa procedura, però ci chiediamo come è possibile che il Comune non abbia reagito, non abbia protestato, se intende farlo un ricorso contro questo voto che è stato tolto e che poteva essere determinante e che ora il Comune non ha. Mi diceva Sandro che nell'assemblea serpeggia una voce, io ve la riferisco come mi è arrivata, che cioè al Comune possa essere sottratto ulteriormente un altro voto, così siamo fregati, scusate. Perché? Allora, dicevo, questa era la seconda domanda che il sindaco ha introdotto in fondo. Se quanto è avvenuto con la riduzione di un voto ha trovato il Comune, come dire, acquiescente oppure arrabbiato, con delle intenzioni di fare ricorso contro una decisione che comunque lascia spazi enormi di dubbi e di perplessità, non solo nella forma, ma nel merito, nella sostanza della questione. Cosa ci dice sindaco? Che noi già abbiamo contestato, infatti l'assessore era presente a questa conferenza dei servizi e siamo stati avvertiti del depauperamento di un punto, e la sua manifestazione in presenza di conferenza dei servizi, ma particolarmente con il funzionario della regione, perché è lui che sta gestendo questa conferenza dei servizi e non i politici. Quindi io sto aspettando, ma lui già ha contestato, ma poi telefonicamente ho contestato anche io la presenza di questo, e infatti ho detto che farò ricorso, perché non si poteva fare ormai in corso d'opera la presenza dell'ASI, ma loro hanno detto che ormai sono stati informati, e in quell'occasione è stata presentata una delibera dove il territorio, quindi la Marangoni, rientra urbanisticamente in competenza ASI, non è più di competenza comunale. Ecco come loro hanno giustificato questo punto all'ASI e quindi rimosso al Comune. Anche perché questa zona ASI è stata introdotta, la Marangoni è stata introdotta nella zona ASI nell'anno 2008, anno in cui il sindaco Noto era a riposo e c'era un commissario. Questo è senz'altro vero, resta il fatto che questa attribuzione non soltanto è un danno palese, e quindi lei mi fa capire che è contestabile questa riduzione, anche perché, in parole povere, esiste una contraddizione di fatto. È vero che quella zona può essere stata attribuita alla competenza ASI da decisioni prese precedentemente, è anche vero che quella zona ora costituisce centro abitato e ci sono regole anche nelle decisioni a questo proposito, per cui non è possibile che sorgano certi impianti dove è centro abitato, e non soltanto perché c'è la gente che ci abita, perché è pure scritto sui cartelli, fatti mettere dal Comune. Infatti proprio questo è il punto di contestazione, perché per noi quello è un centro abitato, quindi è un'integrazione, vorrei sapere come hanno fatto, un'integrazione della zona ASI in un centro abitato, perché il centro abitato è stato fatto nel 2007, quindi bisogna rivedere un attimino, quindi questo è un punto di contestazione. E a dire il vero, quei tre punti al Comune, perché il momento in cui furono accreditati i tre punti al Comune è stato proprio quando il sindaco Noto ha puntato i piedi con la Regione Lazio, perché pretendevo il massimo del punteggio, e proprio lì io riuscii ad ottenere tre punti per il Comune, due punti andarono alla Regione, di cui uno all'ARPA e uno al funzionario della Regione, e due punti poi andavano in provincia. quindi sostenuto anche dall'assessore provinciale, perché c'era già l'assessore provinciale, l'avvocato De Angelis, e con lui che sono riusciti a ottenere i 3 punti, però come vedete siamo stati depauperati di questo punto, ma su questo già abbiamo contestato e faremo, comunque porteremo avanti le contestazioni. Va bene sindaco, noi lo terremo presente e certamente non abbandoneremo affatto questo aspetto. Vengo ora alla terza domanda, ed è l'ultima, e riguarda una cosa a cui teniamo molto e che le chiediamo. Il coordinamento ha provveduto a far redigere delle relazioni a dei tecnici e noi abbiamo disponibili ora una relazione tecnica del dottor Racanelli, che molti di voi avranno ascoltato nel convegno del 18 marzo, una relazione tecnico-impiantistica dell'ingegner Romaris, una relazione medico-scientifica del dottor Carideo, che era ugualmente presente nella conferenza del 18 marzo, e abbiamo poi un documento sottoscritto dai rappresentanti delle categorie agricole e di allevatori. Questo dossier noi lo chiediamo, sindaco, noi le chiediamo di presentarlo come comune e come documentazione, conferenza dei servizi, a giustificazione e a supporto di quello che il comune ha a sua volta. Quindi vogliamo che lei ci dica se accetta di presentare in comune questo materiale di natura tecnico, scientifica, economica, di farlo proprio e di presentarlo insieme alla documentazione, perché sia a sua volta un sostegno ulteriore alla documentazione del comune. Che mi risponde? Che sicuramente io vorrei anche analizzare, ma lo presenterò. E ma vi dico ancora qualcosa di più: siccome ho dei tecnici e di alto livello, non per sminuire quelli che poi lei mi ha detto, ma lei poi vedrà quali sono i nostri tecnici comunali, perché è un team a livello nazionale e forse internazionale del CNR, io già ho una mia documentazione per poter produrre alla regione nella conferenza dei servizi, e loro stanno lavorando per questo. E posso anticipare, mi dispiace che ancora non arriva l'assessore provinciale, però anche l'assessore provinciale ha una sua documentazione per poter produrre, quindi, perché noi ci siamo, abbiamo cercato di organizzarci unitamente ma in modo separato, in modo che ognuno potesse portare dei documenti tecnici, perché questo ci è stato sottolineato con un fax dalla regione, dal funzionario della Regione Lazio, ricordandoci che nella conferenza dei servizi bisogna produrre solo temi tecnici, non è una conferenza politica. Quindi sulla base di questo il sindaco con l'assessore e con il placet dell'amministrazione, perché abbiamo fatto delibera, abbiamo dato degli incarichi a dei tecnici che mi daranno supporto in quello che sarà il mio no, e ve lo risottolineo. E così la provincia, e così vedremo questo CarFlap se verrà a dare un business. Bene, allora torniamo in diretta, vi abbiamo dato, come dire, conto di quello che troverete sul nostro sito. Insieme a questo video troverete anche molte belle foto di questa manifestazione, troverete anche un articolo del nostro sito, quindi vi invitiamo a vedere questa pagina su www.radioernica.com. Sì, siamo arrivati alle 19:17 minuti primi in questo istante. Vorrei darvi lettura di un'ultima ora che mi sembra anche molto interessante per comprendere un po' anche quella che è un po' la crisi internazionale. Nel nostro paese si sente ormai da qualche tempo, ma non solo da noi, un po' dovunque, dove è nata la crisi negli Stati Uniti, pensate un po'. Si perde anche per quanto concerne la lettura dei giornali, che perdono in maniera drastica e che addirittura vanno a picco in giù. Pensate, la stampa degli Stati Uniti perde l'8,7% dei lettori e questo accade in soli 6 mesi, quindi a base annua la discesa dovrebbe essere molto ma molto più consistente. Si acuisce la crisi della carta stampata negli Stati Uniti in 6 mesi, i maggiori 25 quotidiani degli Stati Uniti hanno perso l'8,7% dei lettori, lo annuncia l'ufficio rilevamento della circolazione dei giornali. Il calo più vistoso lo accusa il San Francisco Chronicle, 23% in meno, mentre USA Today, fino all'anno scorso il quotidiano più diffuso, perde il 13,6% dei lettori. Il più letto rimane il Wall Street Journal, l'unico con una tendenza positiva di appena lo 0,5%. Male sia il New York Times con l'8,5% in meno, ma resta terzo, e sia il Washington Post con un calo addirittura del 13,1%. Probabilmente c'è o un calo di interesse dal punto di vista politico, oppure la spiegazione invece più logica che danno in tanti è che magari risparmiando sull'acquisto del giornale si può comprare qualcosa, magari, perché no, o il cornetto o il famoso caffè. E diamo notizia anche di una iniziativa di Coldiretti, un weekend all'insegna delle bandiere gialle della Coldiretti, grazie al primo appuntamento dedicato al mercatino di campagna Amica e l'iniziativa Agriflora 2010. Hanno infatti trovato spazio nel capoluogo gli stand dei produttori della organizzazione diretta da Gianni Lisi e presieduta da Loris Benacquista. Ma andiamo con ordine: la prima delle due iniziative si è svolta nel piazzale della sede del capoluogo della Coldiretti, al bivio di Brunella, nella centrale via Madonna della Neve. La seconda si è tenuta nella giornata di domenica ed ha avuto luogo nel piazzale del popoloso quartiere Caponi. In entrambi i casi prodotti offerti con i prezzi calmierati dai tanti imprenditori presenti hanno registrato successo in termini di acquisto, così come il numero delle presenze è stato davvero notevole. Siamo soddisfatti, ha detto il direttore della Coldiretti Gianni Lisi, e ringrazio tutti i cittadini che hanno manifestato la propria vicinanza alle nostre iniziative, con la quale intendiamo costruire un percorso che possa offrire una serie di appuntamenti fissi durante i quali accorciare la filiera delle produzioni di qualità del nostro territorio, a vantaggio dei cittadini consumatori. Sì, volevo dare una notizia che avevo già programmato precedentemente e poi abbiamo abbandonato perché mi sembra molto importante. Riguarda Anagni e una mostra di quadri di Marco Gizzi, che è aperto ieri alle 18 ad Anagni nella Sala della Ragione del Palazzo Comunale della nostra città, la mostra personale del pittore Marco Gizzi. L'esposizione conta 30 anni di attività e in questa particolare occasione sarà presentato il libro monografico a cura di Daniele Baldassarre, Marco Gizzi dentro l'opera. La mostra rimarrà aperta sino al prossimo 9 maggio e gli appassionati potranno vederla, ammirarla tutti i giorni, ricordiamo, presso il Palazzo Comunale della nostra città. È arrivato anche Giuseppe Russo, che come ogni giorno si alterna con noi ai microfoni di Radio Ernica. Lo salutiamo chiaramente. Giuseppe, com'è andato il fine settimana? Beh, il fine settimana, buonasera cari amici, scusate il ritardo come diceva qualcuno. Beh, il fine settimana è andato abbastanza bene. A proposito di fine settimana, permettetemi un uso privato del microfono. Tanti auguri di buon anniversario, di buon 50° anniversario di nozze a mia madre e a mio padre, che appunto ieri hanno celebrato ampiamente le nozze d'oro. Giustificato, insomma, questo. E questa è una prima notizia che vi ho dato circa il mio fine settimana. Beh, la prima parte del fine settimana, il sabato, l'ho passata insieme a voi, cari amici, lo sapete, vi ascoltavo in macchina poco fa e appunto ascoltavo qualche brano che mandavate dell'incontro della bellissima manifestazione che si è tenuta ad Anagni contro l'inceneritore Marangoni, inceneritore Carflaff, una manifestazione che a mio avviso, non so, forse probabilmente l'avrete notato anche voi approfondendo con i nostri ascoltatori, non ha precedenti nella nostra città. Dicevamo proprio questo, non so se questo passaggio tu lo avevi ascoltato, che in effetti è un'iniziativa senza precedenti anche in termini di partecipazione. Perché in genere le manifestazioni ad Anagni, lo abbiamo visto anche quando si trattava di tutelare, come dire, interessi molto concreti come quello della sanità, non c'era una attenzione così forte. E invece sabato effettivamente abbiamo visto per la prima volta una manifestazione molto corposa e di questo siamo estremamente felici. Sì, anche noi resta da capire se insomma questo interesse della popolazione di Anagni e dintorni avrà dei risultati in seno alla conferenza dei servizi. Ricordiamo 4.000 firme raccolte dai comitati e dalle associazioni, appunto una vasta partecipazione alla manifestazione di sabato che ha visto anche la partecipazione di una decina di trattori, circa di trattori contro, li potremmo chiamare, che hanno appunto aperto il corteo in rappresentanza degli agricoltori. Bene, se vogliamo approfondire ancora questo tema, altrimenti volevo anche però invece toccare un altro argomento che in un certo senso riguarda anche la salute e la qualità della vita nella nostra città, perché appunto è Ciociaria Oggi che ci dà questa notizia questa mattina. Ha intenzione di adottare il pugno di ferro contro la sosta selvaggia. Molte automobili rimosse dalle fiamme gialle nella notte tra sabato e domenica, e infatti la movida del fine settimana ha paralizzato la zona di Viale Regina Margherita. Ma leggiamo l'articolo di Ciociaria Oggi che appunto ci riporta questa notizia. Pugno di ferro contro il fenomeno del parcheggio selvaggio che ogni sabato sera paralizza Viale Regina Margherita e le zone della movida anagnina. Centinaia di auto nelle ore notturne vengono lasciate in sosta nei punti cruciali della viabilità, all'altezza degli incroci, lungo il marciapiede, in viale Matteotti o via San Magno, riducendo considerevolmente la carreggiata e paralizzando il traffico. Ma non solo, spesso, come è accaduto sabato scorso, le vetture dei giovani che affollano i locali del marciapiede di viale Regina Margherita bloccano l'accesso ai garage, rendendo un inferno il rientro a casa dei residenti, costretti a suonare il clacson a lungo e spesso senza riuscire a richiamare l'attenzione del proprietario dell'auto in sosta selvaggia. Ne deriva un ulteriore aumento del rumore, già tanto avversato dai residenti della zona, ma soprattutto in estate. È dello scorso anno, infatti, la polemica relativa all'eccessiva confusione dei giovani sul viale che ha portato il comune a imporre un orario di chiusura anticipato ai molti locali del centro. Tra disagi reali e polemiche, fatto sta che sabato scorso un'auto che intralciava il passaggio per raggiungere il garage di un edificio di Viale Regina Margherita ha sollevato una reazione di ferro da parte della Guardia di Finanza, la cui tenenza ha sede proprio in quella zona. Per consentire il rientro a casa di una famiglia, le fiamme gialle hanno disposto la rimozione forzata della vettura e contestualmente hanno staccato multe a tutte le auto parcheggiate al di fuori degli spazi consentiti, risolvendo così l'emergenza del momento. Resta però il problema, poiché ogni fine settimana si assiste all'invasione di auto concentrati in un raggio di poche centinaia di metri, con disagi notevoli per i cittadini. Bene, questa notizia ci sembrava molto importante. Beh, cari ragazze e cari ragazzi, il sabato, che siete in ascolto naturalmente, il sabato cercate magari di fare qualche piccolo sacrificio in più, magari lasciare la macchina 200-300 metri più lontano, ma questo servirà a garantire la sicurezza e la qualità della vita nel nostro caro viale Regina Margherita. Bene, allora vogliamo fare un'altra pausa e poi torniamo di nuovo in diretta. Non parlare più, l'aria è fresca e la pretesa di ogni cosa è di essere grande, di essere importante. Tu prendevi le mie mani, tu ridevi tra di me. Bye. Sì, torniamo in onda per parlare di questa incresciosa situazione che si è verificata per la manifestazione del 25 aprile a Roma, dove c'è stata questa dura contestazione da parte dei centri sociali che hanno lanciato vari oggetti alla manifestazione, dove era presente sia Zingaretti che la Polverini. Tra l'altro Zingaretti, che cercava di consentire alla Polverini di parlare, si è beccato anche un corpo contundente nell'occhio, un limone incartato in carta metallica stagnola. Quindi insomma, voglio dire, è un fatto assolutamente negativo che va evidenziato. Questo mi sembra veramente il caso di dirlo. Insomma, indipendentemente adesso dalle posizioni politiche, si deve sempre il massimo di rispetto a tutte le istituzioni, indipendentemente che si possa dire che nella giunta Polverini ci sia anche l'appoggio della destra, di Storace, del Pecora e di quant'altro, ma però la, come dire, la presenza ad una manifestazione di quel genere da parte della Polverini doveva essere garantita. Tra l'altro, a rovinare la manifestazione di ieri sono state anche le affissioni di manifesti inneggianti al Duce nella città di Roma. Quindi due fatti estremamente negativi. Che ne pensi, Peppe? Beh sì, innanzitutto occorre dire che ha avuto molta più risonanza la notizia della contestazione della Polverini a Roma e della Moratti e di Podestà a Milano, ma diciamo la stessa risonanza non è stata data all'altra manifestazione incivile, quella della fissione selvaggia di manifesti inneggianti al Duce. Quindi insomma, su questo io non vorrei schierarmi in situazioni sulle quali invece bisogna essere uniti, però insomma questo credo vada notato, come va anche un po' notata sicuramente la solidarietà che è stata espressa da tutti trasversalmente al presidente Zingaretti. Ma insomma nessuno però ha detto che l'amore alla fine vince sempre sull'odio e sull'invidia, come è stato in altre occasioni, forse magari anche più drammatiche, come nel caso del ferimento del Presidente del Consiglio qualche mese fa. Ma noi chiaramente non vogliamo fare speculazione politica o schierarci in queste situazioni. Noi definiamo questi contestatori delle persone che non, come si dice nel calcio, con lo sport nulla hanno a che vedere con la politica, perché l'imbecillità non dovrebbe far parte della politica. La festa della liberazione è la festa della liberazione di tutti gli italiani. Che il problema non sia stato ancora risolto dell'unità nazionale in Italia, perché c'è ancora un capitolo che non è stato chiuso, che è quello che riguarda la resistenza, i resistenti e la lotta che c'è stata tra appunto coloro che stavano da una parte e dall'altra. Questo è un problema che non è stato risolto, che anche diciamo che bisogna anche dire che viene creata molta confusione anche dalla nostra classe politica, che appunto in alcuni casi si diciamo impegna in un'opera di revisionismo che insomma ha poco a che fare con la ricerca storica. Però insomma il Presidente della Regione, come il Presidente della Provincia, rappresentano delle istituzioni che sono istituzioni di tutti gli italiani. Chi non capisce questo naturalmente non ha nulla a che fare né con il 25 aprile né con la resistenza. La dimostrazione lampante è data dal fatto che i primi a ribellarsi per queste forti contestazioni e queste forti polemiche sono stati proprio i partigiani che erano presenti lì e che hanno combattuto per liberare l'Italia e per assicurarci oggi la libertà e la democrazia. Ma sentiamo appunto anche un contributo del TG1 e di Repubblica TV sulla vicenda di Zingaretti. Alla cerimonia di Porta San Paolo contestata la neogovernatrice del Lazio Renata Polverini al grido di fascista, e il presidente della Provincia Zingaretti che, colpito da un limone, commenta: una bella piazza rovinata da mascalzoni, monetine, uova, fumogeni gettati sul palco, inutili richiami del presidente dell'associazione partigiani Rendina che gridava: abbiamo voluto le istituzioni democratiche, rispettiamole. Un'aggressione indegna, reagiscono Gasparri e Cicchitto, ingiustificabile per il PD. Solidarietà a Polverini e Zingaretti dai sindacati e dal sindaco Alemanno. Basta col clima di odio, ricuciamo l'Italia, l'appello dell'UDC Concesa. Sì, allora questo è il pezzo generalista e dovrebbe esserci anche il pezzo con le dichiarazioni che Zingaretti ha fatto alla stampa che viene rimandato anche sul sito di Repubblica, eccolo. Una contestazione di un gruppo di inqualificabili fascinorosi che hanno cominciato a tirare degli oggetti sul palco per non far parlare la Presidente Polverini, e io ho trovato indecente che si possa solo teorizzare nel giorno della libertà e della riconquista della democrazia che qualcuno teorizzi che un essere, un politico, non possa prendere la parola in una piazza. Quindi è andata così, ovviamente la giornata del 25 aprile però continua. Certo, no, ma io volevo capire, poi è stato lei a farne le spese, cosa le è arrivato addosso? Guardi, penso un frutto chiuso dentro un cartoccio, perché penso che sia stata una cosa premeditata, perché erano degli oggetti preparati, diciamo. Capito, e l'ha presa proprio nell'occhio? Sì, nell'occhio. Quindi adesso immagino che sarà un po'... sarà gonfio adesso, immagino. Sì, un po' sì. Però insomma, diciamo che il dolore fisico è anche un po' il dispiacere per quello che è successo, perché ho letto che poi siete dovuti andare via, siete, avete lasciato la manifestazione. No, il problema fondamentale, a parte il fatto che io sono stato colpito, è questo, cioè che il 25 aprile è una giornata nella quale insieme, uniti, dovremmo festeggiare e ricordare la riconquista della libertà e della democrazia, e invece per colpa di qualcuno che interpreta a suo modo la storia si finisce per negare i valori stessi del 25 aprile della libertà. Calcoli che io avrei dovuto dare un riconoscimento della provincia capitale, a un uomo, Remo Comanducci, che a 20 anni e 65 anni fa lottò a Porta San Paolo, e anche Remo era sconvolto, perché è evidente che c'è un abisso tra quello che animò quelle giornate e questi atti scellerati. Tra l'altro premeditati, come sembra di capire, quindi gente che viene in piazza apposta per creare queste situazioni, no? Assolutamente sì, assolutamente sì, perché erano monetine ma anche oggetti che avevano accuratamente preparato. Ora comunque siamo a Pietralata, una bellissima festa popolare per il 25 aprile, più tardi saremo all'Eur, quindi ripeto, denuncia, e sia chiaro a tutti, come diceva Voltaire, che posso non condividere nulla delle idee di un altro, ma bisogna dare la vita per permettere all'altro di esprimerla, senza dubbio. Beh, bene, insomma, molto esplicito il presidente della provincia di Roma, Zingaretti, che ha fortemente stigmatizzato quest'atto così violento, quest'atto anche inutile dal punto di vista politico. Vogliamo anche ricordare forse un fatto, riportando un po' il nostro approfondimento anche alle questioni locali, che ad Anagni il 25 aprile non esiste da qualche anno, il 25 aprile non viene celebrato, nemmeno con un comunicato dell'amministrazione comunale, non una corona d'alloro deposta presso il mausoleo ai caduti. Per la nostra amministrazione comunale sembra che il 25 aprile sia una festa così normale per organizzare, magari, tempo permettendo, delle gite fuori porta. Sarebbe stato necessario quest'anno, più degli altri anni, in quanto appunto sono state diffuse negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, su Facebook delle fotografie che ritraevano uno degli assessori della giunta Noto, in particolare ricordiamo Roberto Verzi, appunto intento davanti alla cripta di Benito Mussolini, in un suo pellegrinaggio a Predappio, intento anche a rendere omaggio al Duce con tanto di saluto romano. Magari se il sindaco Noto avesse celebrato il 25 aprile, avesse diffuso un messaggio per ricordare questa data importantissima per la nostra Repubblica, forse sarebbe stato meglio. Sì, effettivamente da un po' di tempo la cosa ormai passa molto sotto silenzio, e anche io credo che sia una pessima abitudine da parte dell'amministrazione comunale, una, come dire, pessima manifestazione di cultura, perché si tratta anche di cultura delle nostre origini e della nostra città, che così duramente è stata colpita da quegli avvenimenti legati alla guerra. Sì, ricordiamo infatti il tragico bombardamento del 19 marzo del 1944, che costò la vita di diverse centinaia di nostri concittadini. Bene, mi pare che siamo arrivati al termine, mi pare che possiamo dire che anche oggi le nostre 2 ore di diretta sono andate in onda, anche qualche minuto in più delle 2 ore. Noi rimandiamo anche questa trasmissione domani, quindi la riascolterete anche nella giornata di domani, e diamo appuntamento a voi tutti a domani pomeriggio. Buonasera cari amiche e cari amici di Radio Ernica.